Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora insieme con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, è un vero piacere ritrovare il presidente Carlo Garofolini con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Con te Carlo parliamo di quelle bollette famose che quando arrivano ti lasciano con la bocca aperta, gli occhi strampalati e ti domandi adesso cosa devo fare per pagare una bolletta quando ti arrivano cifre esorbitanti? Purtroppo sì, parliamo della vicenda di una coppia di persone che si sono rivolte all'Adico perché per effetto di una perdita occulta si sono trovati una bolletta da quasi 9.000 euro, esattamente 8.850,27 euro. Certamente una cifra del tutto spropositata rispetto a quelle che sono le loro bollette e consumi pagati abitualmente, di cui chiaramente l'Adico ha pensato subito di contestare, in quanto le persone in oggetto per fortuna avevano aderito a quel fondo di garanzia, a questa assicurazione contro le perdite occulte, ma che è una vicenda alla quale tuttora c'è un sviluppo in corso e non si è conclusa affatto rispetto a quelle che sono insomma, le nostre previsioni, ma che certamente sarà così nel risultato. Ascolta Carlo, cioè la perdita era dopo ovviamente il contatore, quindi il contatore girava. Sì, il contatore girava, la persona girata a questo conguaglio esorbitante, chiaramente l'Adico ha subito agito d'ufficio, ultimando subito la società fornitrice dei servizi a stornare l'importo richiesto a questa coppia di persone e in prima battuta abbiamo ottenuto uno sconto di 6.500 euro, ma sono tornati alla carica per pagare gli altri 2.200 euro. Chiaramente anche questi 2.200 euro, come dico noi, lo contestiamo perché essendo che non è un consumo determinato su quelle che sono delle normali bollette che questi utenti pagano, normalmente ci siamo sentiti di andare avanti con la vicenda, ad oggi non è ancora conclusa, ma siamo fiduciosi che anche questi soldi non verranno pagati. Quindi da fare subito, insomma, sentire l'Associazione Difesa Consumatori per farsi aiutare in queste cose è importantissimo per risalire a quella che è la verità, no? Ma certamente quando accadono queste cose c'è sempre di augurarsi di aderire a questi fondi contro le perdite occulte, perché purtroppo è una pratica che capita troppo frequentemente, che questi tubi con gli anni si rompono e andiamo a scoprire l'evento solamente quando ci arriva da pagare. Certamente in questa situazione chi non aderisce a questi fondi dovrebbe veramente trovarsi in condizioni di giustificare come mai ha pagato circa 9.000 euro, oltre al costo della ricerca perdite, che a volte anche questo ha la sua rilevanza. Certamente i coniugi si sono messi bene, oggi come detto rispetto a 9.000 euro ne mancano poco più di 2.000 euro, ma insomma anche qua siamo fiduciosi di trovare un accordo, perché chiaramente il pagamento deve essere proporzionato a quelli che sono i consumi, non quelli che sono le franchigie. Però certamente non è una problematica unica nel suo caso, ma come questa ne abbiamo tantissime. Ecco, quindi loro oltre alla bolletta avevano già avuto il prelievo con il RID, insomma con il bollettino automatico della banca? No, in questo caso i signori sono stati hanno avuto modo di ricevere il cartaceo qualche giorno prima e bloccarli, però certamente che in questa vicenda che deve essere ancora definita totalmente, la società ha pensato anche di interrompere il servizio, chiaramente noi abbiamo intimato subito di riallacciarlo e tuttora sono diciamo ancora clienti di questa azienda, però certamente è una vicenda che deve far riflettere, soprattutto indurre le persone a stare attenti, perché noi diciamo sempre che ogni tanto serve buona cosa verificare che il contatore non gira quando tutti i rubinetti sono chiusi, così come per il gas e così come per l'energia elettrica, perché non dobbiamo aspettare di ricevere queste bollette con queste cifre, con questi zeri, per renderci conto del guaio in cui siamo incappati, ma un po' di prevenzione normalmente non farebbe mai male farla. Cioè sarebbe bello che anche la stessa società che ti fornisce e l'energia elettrica e l'acqua e il gas ti avvisassero appena il tuo consumo è abnorme, ma evidentemente anche loro non hanno la possibilità di tenere sotto controllo questi consumi. sicuramente non hanno la possibilità, a volte vorrei essere anche un po' malizioso, dire non hanno la convenienza, certamente non in questo caso in cui si devono addebitarsi questi consumi, però non è la prima volta che con guai incredibili di energia elettrica e di gas mettono in crisi veramente le famiglie che non hanno soldi per pagarli. Certo, è vero che si possono rateizzare gli importi, si possono ricalcolare, si può fare tante verifiche, ma di fatto sono sempre situazioni alquanto poco simpatiche quando ci si trova ingarbugliati con queste richieste di pagamento. Come detto, un po' di prevenzione non fa mai male, perché non possiamo aspettare sempre di fidarci di una lettura preventiva, in quanto anche se effettiva, nei casi di una perdita occulta si fa presto a far lievitare gli importi con il trascorso dei giorni, delle ore, da una bolletta all'altra. Ho capito, grazie quindi a te Carlo, l'importante è quindi controllare i nostri contatori, ogni tanto perderci un po' di tempo, quei minuti necessari per vedere, chiudendo tutti i rubinetti, andare a vedere se c'è il contatore che gira, o spegnendo tutte le fonti elettriche, andare a vedere se il contatore elettrico misura ancora qualcosa, perché vuol dire che da qualche parte abbiamo delle perdite e questo non giova sicuramente al nostro portafoglio. Grazie a Carlo Garofolini, che ritroviamo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.